vi arriva il poeta, torna alla luce con i suoi canti e li disperde. In questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto. L'aria per il suono, la luce grazie al vuoto, le nuvole per l'acqua, la macchina per l'uomo, l'api per il polline, la vita per la vita, da una margherita la storia infinita, il mare per il sale, il vento per le foglie, il vento dei gabbiani, il mare per gli squali, dalla pioggia ai fiumi, dai fiumi laghi, dai laghi pesci, pesci per gli umani, tu per la serenità, tu la musicalità, tu per la felicità, tu il mio fiore di vita, tu sei il mio trasporto, il mio mezzo di trasporto, tu sei il mio porto, il mio porto sepolto, da dove io parto, dove io ritorno, dove non importa se stiamo andando a fondo. Dall'uomo l'amore, dall'amor la vita per l'amore, un gioco di parole. L'aereo per l'uomo, l'autobus per l'uomo, la macchina per l'uomo, la mongolfiera in volo, l'uomo per il fuoco, l'uomo per la scienza, l'uomo e la sapienza, l'uomo è ciò che è noto. Dall'uomo l'amore, dall'amor la vita per l'amore, un gioco di parole. Tu per la serenità, tu la musicalità, tu per la felicità, tu il mio fiore di libertà. Trasporto, il mio mezzo di trasporto, tu sei il mio porto sepolto, da dove io parto, dove io ritorno, dove non importa se stiamo andando a fondo. Veraci come beat, potenti come tir, tranquilli come chi prende tutto così, così come viene, senza troppe pretese, sempre col cuore in pace, impaziente di aspettare il momento giusto in cui ho fatto tutto, sempre col giusto gusto, equilibrio è tutto, no. Prima il dolce, poi il salato, d'inverno il gelato, l'estate la minestra accanto alla finestra. Tu sei il mio trasporto, il mio mezzo di trasporto, tu sei il mio porto sepolto, da dove io parto, dove io ritorno, dove non importa se stiamo andando a fondo. Stiamo andando a fondo. Tu per la felicità, tu la musicalità, tu per la serenità, tu il mio fiore di lilla, tu sei il mio trasporto, il mio mezzo di trasporto, tu sei il mio porto sepolto, da dove io parto, dove io ritorno, dove non importa se stiamo andando a fondo.